Con Valeria Parisi, regista del documentario Il Museo del Prado, La Corte delle Meraviglie, al cinema dal 15 al 17 aprile 2019. Valeria, ben trovata. Bentrovati voi, grazie di avermi invitato. Ci presenti questo tuo lavoro? Certo, la storia del il Museo del Prado, La Corte delle Meraviglie. In 90 minuti il tentativo di raccontare 1700 opere esposte, la collezione dei reali di Spagna, la storia di re e di regine per 6 secoli, i palazzi reali. Direi che è un'impresa ambiziosa, spero che sia un risultato soddisfacente, ecco. Comunque è il tentativo di raccontare un museo che compie 200 anni, l'occasione è questa, in una maniera non didascalica, non didattica, ma invece piena di vita. Abbiamo un talent eccezionale perché è Jeremy Irons, e chiaramente questo ha fatto sì che il nostro lavoro dovesse essere di un livello eccezionale come il nostro talent. Come ha avuto origine quest'impresa? Noi siamo una casa di produzione con un certo background che è 3D Produzioni Video. Abbiamo una lunga storia rispetto ai documentari d'arte, di design, ci occupiamo di cultura da tantissimo. C'è stato un incontro tra 3D Produzioni e Nexo Digital, per cui abbiamo coprodotto insieme diversi film documentari per il cinema ormai, perché è stato fatto Hitler contro sempre noi, o comunque i miei colleghi hanno fatto Hitler contro Picasso, c'è stato un film su Van Gogh tra il grano e il cielo, c'è stato Eros e Psiche su Klimt e Schiele, e quindi abbiamo questa tradizione ormai di fare dei documentari d'arte. Diciamo che poi i documentari d'arte è un nuovo linguaggio che sta incominciando ad affermarsi anche a livello cinematografico. Noi eravamo abbastanza preparati per poterlo affrontare, credo, perché avevamo questo background di documentari, comunque televisivi, ma sempre culturali. Di fronte a questa enormità, come hai voluto impostare il lavoro? Direi studiando moltissimo, nel senso che c'è stato sicuramente all'inizio la sensazione di essere sovrastati dall'immensità della cosa, e poi piano piano, cioè non è stato un lavoro per fortuna che ho affrontato da solo, io e Sabina insieme che è l'autrice di tutti i testi e con la quale insieme abbiamo fatto la sceneggiatura, ci siamo confrontate tantissimo, ci sono tra gli intervistati diciamo i curatori del museo e sono i maggiori esperti rispetto ai vari periodi, cioè avevamo il più grande conoscitore di Tiziano, la più grande esperta di Goya, la curatrice di El Greco, per cui eravamo sicure che quello che ci dicevano sarebbe stato sicuramente dal punto di vista, diciamo, scientifico esattamente corretto. Il lavoro che noi abbiamo fatto, che io penso di aver fatto importante così, è stato anche di trovare il modo di raccontarlo in maniera che potesse essere poi fruibile tutta questa conoscenza, tutto questo sapere, per cui abbiamo molto giocato sull'alternanza tra due piani. Da una parte c'era Irons con tutta la sua intensità dentro al Salon de Reynolds. Era una dimensione quasi al Salon de Reynolds, è questo spazio che diventerà parte ampliamento del Museo del Prado, ma che è uno spazio un po' fatiscente al momento, abbandonato, e lì Iron si muove in una dimensione quasi atemporale, che sembra molto contemporanea. E dall'altra invece c'era il museo con i suoi quadri, e lì abbiamo deciso di giocare molto sull'uscire fuori dal museo, trovare tutti i link, tutti i collegamenti che i quadri ci offrivano, per appunto per far entrare la vita, diciamo, cioè arte e vita è un po' quello che abbiamo cercato di tenere sempre unite. Che impressioni ne hai ricavato? Beh, è stato entusiasmante farlo e di grande, credo che il mio lavoro sia molto bello perché ti propone un'immersione diurna e notturna in questo caso, perché nel museo giravamo sempre di notte, no? Ci sono dei momenti talmente densi, ti riempono e ti permettono di venire a contatto con l'arte in una maniera che credo sia unica. L'impressione che ho ricavato poi in questo caso è che appunto esiste un legame profondo tra i vari paesi dell'Europa, per esempio, che l'arte è veramente un codice, un linguaggio europeo, perché raccontando questi 4-5 secoli abbiamo visto come i quadri si spostassero da un paese all'altro, da una collezione all'altra, un autore, un pittore prendesse per riferimento un altro autore di un altro paese, ci fosse comunque un continuo scambio, per cui insomma mi sono molto sentita vicina anche ai nostri fratelli spagnoli, anche così da questo punto di vista. Un'uscita di 3 giorni, in quante sale sarà? Non lo so, è distribuito in tutta Italia, francamente mi manca il dato, so che si può vedere dappertutto in Italia e spero che lo vedano in tanti. C'è uno spazio web dedicato a questo lavoro? Sì, certamente, su Nexo Digital si possono avere ulteriori informazioni, certo. Allora, ricordiamo il documentario, il Museo del Prado, La Corte delle Meraviglie, al cinema dal 15 al 17 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Valeria Parisi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, a presto, arrivederci.